Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti. Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com. I Love Italy su Radio Miami International. Benvenuti a tutti nello spazio dedicato per l'appunto ai miei 15 minuti in lingua italiana. Io sono Andrea Mangiarotti, vi ricordo che siamo in onda sulla WRMI Radio Miami International. Il mio programma è in diretta su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. Potete collaborare con la trasmissione inviando una mail a andrea@mangiarotti.org oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com. Potete altresì anche scriverci un messaggio cartaceo, quindi con la vecchia corrispondenza. Potete usare l'indirizzo della radio WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Potete anche, se volete, inviarci i vostri rapporti di ricezione tramite il sito della WRMI, che vi ricordo è il seguente: wrmi.net. C'è una sezione dedicata per l'appunto ai rapporti di ricezione. Compilate questo forum e potete anche allegare una clip audio. Io colgo l'occasione di ringraziare tutte le amiche e tutti gli amici che mi hanno ascoltato. Chi è che mi ha scritto? Riepiloghiamo ancora il tutto. Siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione Andy Mangiarotti. Ed ora è proprio arrivato il momento di salutare gli amici che ci hanno scritto la nostra corrispondenza. Partirei da un amico che ci ha scritto dall'Ucraina, Costantin. Rapporto di ricezione data 25 gennaio 2020. Ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle 21 UTC, frequenza 7780 kHz, per un simpo 35333. Ci ha ascoltato, vi leggo i dettagli della ricezione. Love Italy è stato registrato il 25 gennaio 2020 alle 20.45. Potenza del segnale ricevuto era giusta, interferenza da altre stazioni nulla. Il merito generale è buono. Il programma di trasmissione in lingua italiana poi fa, praticamente mi cita ciò che io ho detto e ciò che ho per l'appunto programmato. Ciao signor Andrea, saluti dall'Ucraina, ho avuto grande piacere nel registrare il tuo programma e inviarti il mio rapporto di ricezione, confidando di ricevere la cartolina QSL di verifica. Ho allegato anche un file audio che registravo la trasmissione. Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali saluti dall'Ucraina, Costantin. Costantin, grazie veramente tanto per avermi ascoltato. Ti ho inviato la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Ora salutiamo un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dal bellissimo Brasile, dove c'è l'amico Matteo. Colgo l'occasione per mandare un saluto a Matteo che si trova per l'appunto in Brasile. Barra Mansa, 19 gennaio 2020, felice anno nuovo, ciao Andrea, come stai? Io sono Reginaldo, dalla città Barra Mansa, stato de Rio de Janeiro, Brasil. Poi mi dice appunto che ad ottobre mi ha ascoltato per l'appunto 19 ottobre 2019 sulla frequenza 7780 kHz via WRMI USA, ci ha ascoltato dalle 20.45 sino alle ore 21 per un simpo 24433. Anche per favore desidero ottenere informazioni, la cartolina QSL, ti ringrazio molto. Probabilmente l'amico Reginaldo Annunziao l'avevo inviata la cartolina QSL, però la Posta Italiana ha avuto molti problemi, hanno perso un sacco di corrispondenza, anche cose importanti, speriamo sia risolta la cosa. Caro Reginaldo, ti ho inviato un'altra cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Grazie ancora a Reginaldo Annunziao dal bellissimo Brasil, Barra Mansa. Andiamo avanti salutando anche l'amico Giorgio che ci aveva scritto l'anno scorso, Giorgio da Correggio, Reggio nell'Emilia, mi scrive: buongiorno, questo non è un rapporto di ricezione per richiedere una QSL, cosa che lei ha cortesemente già fatto circa un anno fa facendo ascoltare per l'appunto la canzone di Sergio Reggiani, e per questo la ringrazio molto, ma soltanto le scrivo soltanto per l'occasione per un saluto e per confermare che tutte le volte che il segnale lo permette io sono all'ascolto della sua trasmissione sui 7780 kHz via WRMI. Ho seguito anche la sua ultima trasmissione del 18 gennaio 2020, interessante il fatto di cambiare il volto della trasmissione dando voce anche alle persone con diverse esperienze. Le allego comunque una piccola registratrone tratta dalla trasmissione e credo che per chi trasmette via radio possa essere piacevole avere riscontri di chi ascolta. Sperando non averla annoiata troppo, le invio i più cordiali saluti. Caro Giorgio, non mi hai per niente annoiato, anzi grazie veramente tanto per la tua bellissima mail che mi dà la forza e mi galvanizza nel continuare questa bella esperienza sulle onde corte. Insomma, ho veramente tanta corrispondenza, mi fa piacere che ci siano tante persone appassionate delle onde corte che amano scrivere e che amano ricevere le nostre cartoline QSL personalizzate. Potete anche richiedere la cartolina QSL proprio della WRMI, basta scrivere a Radio Miami International o in formato cartaceo, questo è l'indirizzo: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 USA, o potete anche scrivere direttamente al sottoscritto andrea@mangiarotti.org. io vi mando la cartolina QSL con il logo di I Love Italy. Quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che solitamente mettono mi piace magari su Twitter, su Facebook. Quindi io attraverso il mio profilo ne approfitto per segnalarvi questa trasmissione sulle onde corte, e grazie anche a Jeff White che ci permette di essere in onda in tre frequenze differenti. Quindi ringrazio le persone che anche attraverso i social network mettono il loro piccolo mi piace, insomma, alla mia trasmissione. Io mi diverto veramente tanto ad essere qua con voi in onda. E ora vorrei salutare un amico che mi aveva ascoltato qualche mese fa dalla Repubblica Ceca. Io l'altra volta vi ho detto Cecoslovacchia, mi scuso, non è più Cecoslovacchia, è Repubblica Ceca, perché la Slovacchia è un'altra nazione. Ringrazio l'amico che Martin, l'amico Martin, perché è stato così gentile di farmi pervenire una cartolina del suo paese, e mi scrive appunto: Andrea Mangiarotti, grazie per la cartolina QSL, e mi manda una bellissima veduta del suo paese, Chinov, adesso non so se è giusta la pronuncia, però una bellissima cartolina che si vede una chiesa e le strade della città. Grazie veramente tanto Martin, molto molto gradita la tua cartolina. Bene, abbiamo concluso l'angolo per quanto concerne la corrispondenza. Vi ricordo che siete su Radio Miami International, la WRMI, al microfono c'è Andy Mangiarotti. Se volete insomma collaborare con noi, se volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9900 1955, pari a 1,31 m. Ed ora parliamo invece degli Oscar del cinema che si sono tenuti all'incirca in questo periodo negli Stati Uniti. Il film del sudcoreano Bong Joon-ho ha ottenuto veramente un sacco di statuette. Sto parlando di Parasite. Parasite è un film del sudcoreano, per l'appunto, Bong Joon-ho, ma questa pellicola è particolare perché nel suo interno c'è anche un po' di Italia. Eh sì, avete capito bene, c'è un po' d'Italia, perché viene utilizzata la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi proprio in una scena dove i protagonisti sono tutti inginocchiati. Pensate che il padre del regista coreano era un appassionato proprio di musica italiana, aveva un sacco di vinili nostrani e ha deciso il figlio, di ascoltando tutti questi vinili, che potesse andare bene una canzone di Gianni Morandi per una scena del suo film, che ha veramente sbancato il botteghino americano. E ora noi, mentre ci salutiamo, perché è arrivato il momento di congedarci, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla WRMI, e l'ultima canzone che vi voglio far ascoltare quest'oggi è proprio In ginocchio da te, che fa parte del soundtrack di Parasite. Addio piacendo, ci risentiamo prossimamente. Ciao a tutti da Andy Mangiarotti, ed ora Gianni Morandi, In ginocchio da te. Ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Io t'amo più della mia vita.